Allora, cominciamo. Ciao a tutti. Io ho solo il compito di dirvi come si svolgerà un po' la serata, perché inizierà Tiziana con alcuni canti anticlericali del repertorio popolare contro la Chiesa, contro lo Stato anche. E poi ci sarà Piero Marazzani che presenterà la mostra che è aperta qui sopra la Calusca, si può già vedere. E poi ci sarà diciamo una pericena, un momento collettivo in cui mangeremo gli strozzapreti, tanto per restare in tema. Questa serata è stata organizzata, diciamo, in avvicinamento al 20 settembre, che era la data in cui praticamente i bersaglieri sono entrati in Roma e hanno posto fine al potere temporale della Chiesa e a quello che ha rappresentato il papato nei secoli precedenti. Quindi, per scaldare un po' l'ambiente, Tiziana farà 4-5 canzoni, che anzi qua ci sono i testi, adesso Mari. Li ho No, li hanno già distribuiti, distribuiti, sì. li hanno già distribuiti. E poi dopo verrà presentata la mostra e la serata è questa, e poi ci sarà un momento conviviale tutti assieme. Buon divertimento, ciao! Ciao a tutti, io sono Tiziana. Claudio si è dimenticato di dire che noi facciamo parte di Musica Lusca, che appunto è una sezione della libreria Calusca e che riguarda libri, suoni, racconti dal mondo popolare. E come sapete, il canto, come la poesia, sono espressioni, diciamo così, del comune sentire della gente. E i canti che presenterò questa sera sono canti risorgimentali, stornelli, di liberi pensatori, canti anarchici, strofette satiriche e canti d'osteria. Questo per abbracciare 2 secoli di storia e anche per dare un'immagine di quello che pensava la gente della Chiesa e dei suoi rappresentanti, dei preti e dei frati. Iniziamo con questo canto risorgimentale che è stato registrato da Cesare Bermani nel Novarese nel 63. E però riguarda la presa di Roma e quello che pensava la gente del Papa. Questo canto diciamo, è stato accompagnato la storia dell'Italia dalla sua unificazione dal 70 fino al 900. E poi è una prova il fatto che appunto Bermani nel 1960 abbia registrato questo canto, che ha fatto parte anche del patrimonio del repertorio resistenziale delle formazioni garibaldine del Novarese. E Roma a Roma. E a Roma, ci sta un papa che di soprannome si chiama Pio IX, lo butteremo giù dal trono. Di papi a Roma non ne vogliamo più, lo butteremo giù dal trono. Di papi a Roma non ne vogliamo più. Prima San Pietro e poi San Paolo. E le loro teste vogliamo far saltare in piazza d'armi la ghigliottina. E le loro teste vogliamo far saltare in piazza d'armi la ghigliottina. E le loro teste vogliamo far saltare. E a Roma, Roma. Ci suonavan le campane, piangevan le puttane, che è morto il puttaniere, butteremo in una pignatta. Fiol d'una vacca, buon brodo ci darà, lo butteremo in una pignatta. Fiol d'una vacca, buon brodo ci darà. Chi siete voi? Noi siamo i piemontesi. Voi siete vili, barbari ed assassini. Sì, no, siamo valorosi garibaldini, che anche Roma vogliamo liberar. Siamo valorosi garibaldini, che anche Roma vogliamo liberar. E sulle mura di quei conventi piazzeremo i nostri cannoni, e i preti e i frati, quei birbaccioni, il buongiorno sì lo daremo noi. E ai preti e ai frati, quei birbaccioni, il buongiorno sì lo daremo noi. Grazie. Continuiamo con questa stornellata proprio con gli stornelli socialisti. È un canto sempre di fine Ottocento e parla di cosa succede ai preti. Nuovi stornelli socialisti. E quando muoio io non voglio preti, non voglio Ave Marie né Pater Nostri, non voglio Ave Marie né Pater Nostri, ma la bandiera rossa dei socialisti. E la rigira l'ho sempre arditi, evviva i socialisti e abbasso i gesuiti. La rigiri l'ho sempre arditi, evviva i socialisti e abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato dai ministri. L'arresto fu ordinato dai ministri, e questi sono i veri camorristi. E la rigiri l'ha sempre arditi, e abbassa... no, ho sbagliato. E la rigira mai la sbaglia, evviva i socialisti e abbasso la sbirraglia. La Francia ha già cacciato i preti e i frati, le monache, i conventi ed i prelati. Le monache, i conventi ed i prelati, perché erano tutte spie, perciò pagati. E la rigira la ferindola, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. La rigira la ferindola, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più manco il papato. Non esisterebbe più manco il papato, e il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigiri là sul 21, evviva i socialisti e evviva Giordano Bruno. La rigiri là sul 21, evviva i socialisti e evviva Giordano Bruno. E quando muoio io non voglio preti, ma quattro bimbe belle alla mia barella. Ma quattro bimbe belle alla mia barella, ci voglio il socialista con la subella. E la rigiri, la ruota e la rotella, Evviva Giordano, Bruno, Garibaldi e Campanella. La rigi, la rigi, la rigiri, la rigiri, la ruota e la rotella. Evviva Giordano, Bruno, Garibaldi e Campanella. Scusate, bevo un goccio perché sono un po' assetata. Fa ancora molto caldo. Acqua ce l'ho, grazie. Bene, continuiamo con i nostri ascolti con una canzone del repertorio anarchico. È stata pubblicata in un periodico anarchico del 1892, proprio edito qua a Milano, L'amico del popolo, che è stato fondato da Pietro Gori, autore, come sapete, di Addio Lugano Bella e poi grande personaggio dell'anarchismo. L'autore di questo testo, che è molto bello, con questo linguaggio molto aulico, è Attilio Panizza. Si intitola Inno dei malfattori. Come vedete nel quel foglio che vi ho dato, sono scritte in grassetto il canto, quello che farò io. È molto lungo, quindi ho deciso di fare un taglio, anche se non sono tanto d'accordo nei tagli dei canti. Comunque, questo riguarda proprio l'argomento di questa sera. Ai gridi ed ai lamenti di noi plebe tradita, la blega dei potenti si scosse impaurita e prenci e magistrati gridaron coi signori che siamo degli arrabbiati, dei rudi malfattori. Folli non siamo né tristi né bruti né birbanti, ma siamo degli anarchisti pel bene militanti. Al giusto e al ver mirando cerchiamo gli errori, perciò ci ha messo al bando col dirci malfattori. Detta fretta sorgere o sol dell'avvenire, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Detta fretta sorgere o sol dell'avvenire, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Chi sparge l'impostura avvolto in nera veste, chi nega la natura sfuggiam come la peste. Sprezziam gli dèi del cielo e i falsi loro cultori, squarciamo il velo, perciò siamo malfattori. Amor ritiene uniti gli affetti naturali e non domanda riti né lacci coniugali. No dai profan mercati distor vogliam gli amori, e sindaci e curati ci chiamano malfattori. Detta fretta sorgere o sol dell'avvenir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. La Chiesa e lo Stato, l'ingorda borghesia, contendono al creato di libertà la via. E presto i diverranno che papa re signori, coi birri loro cadranno per man dei malfattori. Allora vedremo sorgere il sol dell'avvenir. In pace vorremmo vivere, in libertà gioir. Allora vedremo sorgere il sol dell'avvenir. In pace vorremmo vivere, in libertà gioir. Un'altra strofette satiriche che ho trovato nei vari canzonieri. Come sapete, i canzonieri del 700, 800 fino a metà del 900 raccoglievano tutti i canti, sia repubblicani che socialisti che anarchici. Non c'erano delle suddivisioni come oggi. E quindi erano di facile reperibilità, questi canzonieri venivano cantati nei luoghi di ritrovo e soprattutto nelle osterie e poi anche nelle manifestazioni che allora erano partecipate e di massa. Allora, questo è Bruceremo le chiese e gli altari, sono strofette satiriche. Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le regge, con le budella dell'ultimo prete, impiccheremo il papa e il re. Rivoluzione sia, guerra alla società. Piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. E il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione, rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così. Meglio morire per la libertà. Sono stato sul monte Amiata, dove è morto Gesù Cristo. Anche lui era un socialista, anche lui era un socialista. Sono stato sul monte Amiata, dove è morto Gesù Cristo, anche lui era un socialista e morì per la libertà. Prete, prete, tu mi farai morire. Prete, prete, tu mi farai morir, mi farai morir. Prete, prete, tu mi farai morire. Prete, prete, tu mi farai morir, mi farai morir. Ah, questo canto ho fatto una piccola ricerca perché si intitola Bevi, bevi compagno, la canzone che ammazza i preti. È un canto anonimo, che è molto antico, e l'ho trovato nel Canzoniere del Lazio degli anni 70. Questo canto richiama anche un gioco che veniva fatto nelle osterie romane, che si chiama la passatella. C'è una gerarchia, ma è un gioco abbastanza crudele, perché si rischiava il malcapitato, il sotto, cioè c'era una gerarchia molto, molto precisa. Comunque c'era un sotto che subiva, e poi c'erano varie persone che lo comandavano. Allora questo rischiava o di non bere nulla oppure di finire ubriaco sotto il tavolo. Questo è Bevi, bevi, compagno. Bevi, bevi, compagno, se no ti ammazzerò. M'ammazza, compagno, che adesso beverò. Mentre il compagno beve, la canteremo, mentre il compagno beve, la canteremo, la rille la, la la la la la la, la la la. Canzone che ammazza li preti, la la la, la la la. Mazza monache e preti e fra la la la la la la, la la la. La canzone che ammazza li preti, la la la, la la la. Mazza monache e preti e fra. Se nasce l'anarchia, un bel pranzo si farà. Tutto vitella e manzo, raduimo da mangia, saduimo da mangia. Un frittarel di monache, preti e frati spezzati, l'ossa desti maiali, ai cani sa da da, ai cani sa da da. Le chiese son botteghe, li preti son mercanti, vendono madonne e santi, a noi ci credono vecchi e poveri ignoranti, vecchi e poveri ignoranti. La la la la la la, la la la. La canzone che ammazza li preti, la la la, la la la. Mazza monache e preti e fra la la la la la la, la la la. La canzone che ammazza li preti, la la la, la la la. Mazza monache e preti e fra. Allora, per finire, avevo preparato questa canzone del frate Cappuccino, che l'ho trovata nei canti d'osteria di della Mala di Nanni Svampa. Come sapete, Nanni Svampa è anche un ricercatore di canti popolari, in particolare della zona lombarda. Questo parla di un frate cappuccino un po' speciale, che si traveste da frate cappuccino per andare a cercare l'amorosa. Ma comunque è anche un'immagine di come la gente vedeva questi cappuccini, un po', come si può dire, birbaccioni. La notte di carnevale mi son fatto l'amorosa. La notte di carnevale mi son fatto un'amorosa. E adesso più se fa per andarla a ritrovare, vestito da cappuccino me convene andare. E adesso più se fa per andarla a ritrovare, vestito da cappuccino me convene andare. Vestito da cappuccino, bussai alla sua porta. Vestito da cappuccino, bussai alla sua porta. Picchè, picchè, picchè, picchè finché vorrì. Mi golla donna, mo, la tusa, mo, letto che la vuoi morì. Picchè, picchè, picchè, picchè finché vorrì, mi golla tu saletto che l'aver morì. Ma prima di morire bisogna confessarla, ma prima di morire bisogna confessarla. E voi che siete un fra, e un frate cappuccin, salite sulle scale, confessala voi. Scusate, che qui è successo. Rifaccio da capo questa canzone perché è venuta male, veramente. Scusate. Avevo messo male il capotasto. E vabbè, sono cose che capitano. La notte di carnevale mi son fatto l'amorosa. La notte di carnevale mi son fatto l'amorosa. E adesso se fa per andarla a ritrovare, vestito da cappuccino me convene andare. Vestito da cappuccino, vestito da cappuccino me tanto l'amorosa. Vestito da cappuccino me tanto l'amorosa. Picchè, picchè, picchè, picchè finché vorrì, mi golla tu saletto che l'aver morì. Ma prima di morire bisogna confessarla, ma prima di morire bisogna confessarla. E voi che siete un fra, e un frate confessor, salite sulle scale, confessella vu. Per confessare il tuo amore ci vuol le porte chiuse, per confessare il suo amore ci vuol le porte chiuse. Le porte ben serà, finestre spalanca, o bionda o bella bionda, conta sui peccati dell'amore, di amanti ne ho tanti, peccati dell'amore, di amanti ne ho tanti. Diamanti ce ne ho tre, più 123, ma quello che mi piace sta davanti a me. Il frate cappuccino sentì queste parole, e il tira sulla dupia e sotto le lenzuole, e sotto le lenzuola la testa sul cusin, se ti peghe la resa mi gulge il sumin. E sotto le lenzuola la testa sul divan, se ti peghe la viela mi gulge il tulipan. scusate, questo è proprio venuto male. Comunque, con questo finale floreale del frate Cappuccino, io vi saluto e lascio la parola al curatore della mostra anticlericale. Ciao a tutti. Bene, iniziamo dagli ultimi misfatti più clamorosi e parliamo di questo frate Renato Beretta, bustocco ad honorem, che ha rubato ben 23 milioni di euro. È un record, penso, mondiale quasi. E cosa è successo? Che lui praticamente in combutta con un ragioniere, cui l'ordine francescano aveva affidato decine di milioni di euro invece di darli ai poveri, no? In combutta con questo ha fatto sparire tutti questi soldi. Però pare che il mediatore finanziario, insomma il commercialista, non sia stato del tutto a conoscenza della cosa. Cioè il prete, il frate l'ha fregato in pieno, infatti lui si è suicidato. L'altro fatto clamoroso, avvenuto sempre nel Varesotto, è il suicidio di questa ragazza, che era stata concupita e violentata ancora quando aveva meno di 14 anni, quando era minore, da una suora salesiana. E la cosa andava avanti in casa della ragazza, con un triangolo orgiastico col parroco, no? Qui nella più classica degenerazione totale clericale, no? di fare l'esatto contrario di quel che dicono, no? E alla fine la ragazza non ce l'ha fatta più e si è suicidata. La suora è stata arrestata e condannata a 3 anni di carcere, è già uscita. Poi la radio. Allora, grazie ai compagni della radio libertaria anarchica di Firenze, Radio Wombat, con la W, ispirata ai wombati, questi mammiferi australiani, no? Mi hanno affidato questa notizia, questa rubrica del notiziario anticlericale, che va in onda in diretta, comunque la registro prima, insomma tutte le domeniche alle 12, no, quando parla il Papa. Comunque si può sentire a qualunque ora del giorno o della notte, sia dal telefonino sia dal computer, e non dura più di 10 minuti, tanto conosciamo i preti, è inutile battere più di tanto. Quindi c'ho qui i volantini promemoria. Lo sbattezzo, abbiamo qui i moduli dello sbattezzo, che ai tempi che i compagni del Torchiera facevano il Natale anticlericale, riuscivo a fare anche più di 10 sbattezzi il Natale, no? Purtroppo da 3 anni non lo fanno più, speriamo che quest'anno sia la volta buona, che si ritorni alla grande come ai bei tempi. Comunque il nostro sbattezzo del ciclo Giordano Bruno consiste nel compilare un modulo e darcelo, dopodiché noi quando ne abbiamo 4 o 5 facciamo una raccomandata, avviso di ricevimento all'ufficio dei sacramenti della diocesi lì in Piazza Fontana, e quindi tu sei in corso nella scomunica immediatamente. Sì, c'è quello del Luar, però ecco, questo teoricamente. Sì. E appunto, questa è una cosa teorica, perché purtroppo ci sono i preti fanatici che ti boicottano in ogni maniera, dico sì lo farò, track te lo mette lì. Per cui l'UAR, se incappi nel prete fanatico, ti dà un'assistenza legale gratuita per imporgli di fare questa registrazione, di darti una ricevuta. Quindi il loro sistema è più macchinoso, perché devi andare tu dal prete o fagli tu la raccomandata. Ah, ben detto, ben detto. Quello che diciamo anche noi. E nel mio notiziario anticlericale riporto questi fatti. Poi ricordo sempre la rivista Il Vernacoliere, che ha sempre delle rubriche e delle vignette anticlericali molto belle. Poi c'è la rivista dell'UAR, Nessun Dogma, che è un bimestrale, che però non è in vendita, la spediscono solo ai soci, e l'iscrizione costa 30 euro minimo, e forse adesso l'aumentano. Poi abbiamo la rivista Libero Pensiero, che è un trimestrale tipo ciclostilato, che fanno gli amici di Roma del Libero Pensiero. È fatta bene, però vabbè, i pochi soldi sono quelli che sono, quindi fanno solo questo ciclostilato e basta. Poi ricordiamoci che qui vicino, in Canton Ticino, c'è una ricca associazione liberopensiero.ch, dei liberi pensatori del Ticino, che hanno una tassa di iscrizione astronomica di 80 franchi, che io vado a trovarli ogni tanto a fare le iniziative insieme. E hanno una loro rivista, che magari chiedendola, che hanno il loro sito internet, no? Te la mandano anche gratis. Poi c'è il calendario anticlericale, che è lì al banchetto, che è fatto dal compagno Pippo Gurieri di Ragusa, un ferroviere anarchico ormai in pensione, un veterano, che ho conosciuto già ai tempi dei meeting anticlericali di Fano, molto bravo, e tiene la rubrica su Sicilia Libertaria, Fra Dubbioso, in cui dà addosso alla Chiesa, al Papa, eccetera, eccetera. Ma quello che mi riguarda soprattutto è che dal 92 mi stampa il calendario anticlericale, cioè la misfatti della Chiesa per ogni giorno dell'anno, no? E quindi che io riesco a cambiare praticamente tutte le date, tutti gli anni, grazie soprattutto a internet, e ha una serie di enciclopedie sui crimini della Chiesa, come per esempio il dizionario storico dell'Inquisizione, che è a cura della Normale di Pisa, no? Che riporta proprio una valanga di date, di gente arrestata, torturata, condannata, libri bruciati, eccetera, eccetera. E ricordiamo che ogni tanto i preti si uccidono anche fra di loro, e c'è il reato di simulazione di santità, per cui frati, suore, preti simulavano la santità per fanatismo o per attirare i fedeli, e qui abbiamo in questo secolo scorso il santo impostore Padre Pio, che è uscito il libro, no? Ma anche Padre Gemelli, che era un prete reazionario fascistoide, anche lui aveva detto che chiaramente siamo in presenza di un impostore e basta, lui si provocava le famose stimmate, eccetera, eccetera. Comunque aveva un certo carisma, indubbiamente. Il trucco che usava è la bilocazione, cioè lui diceva messa alle 3 di notte ed era sempre pieno di gente, no? Poi si metteva in macchina con un autista, no? Si dormiva, si faceva vedere a Roma la mattina presto, e poi tornava a Pietralcina sempre con l'autista pagato dai ricconi, e così dico: ma come l'ho visto qui un'ora fa e adesso è... E qui riusciva a dare a bere la gente della bilocazione. I francescani sono specialisti in questi trucchi, no? Che ne hanno fatte di tutti i colori. San Giuseppe da Copertino, quello che li evitava, era un trucco. Lui prendeva dei palloni a gas, che già nel 700 si conoscevano queste robe qui, e mettendoli sotto il saio, lui nella quantità giusta, chiaramente faceva tutte le prove prima, e li evitava, no? E poi faceva entrare la gente: come cazzo, questo qui è lievitato, sotto non c'è niente, ma la gente ignorante non sapeva che c'era questo trucco pacchiano, e i francescani da sempre fanno questi trucchi. Ricordiamo poi una delle cose peggiori dei francescani: aver salvato numerosi criminali nazisti nel dopoguerra. La famosa Rat Line era soprattutto fatta da conventi francescani, no? Dove i nazisti venivano rifocillati, ospitati, gli davano i documenti falsi, facevano di tutto per salvarli. Poi arriviamo alla mostra, mostra che ha già un po' di anni, sul 20 settembre. E già che ci sono, vi preannuncio che chiederò qui ai compagni di mettere fuori la mia mostra su Pinelli, no? Che è sempre foto, vignette e ritagli sull'assassinio di Pinelli e sulla strategia della tensione, dove ci sono anche lì delle novità, delle cose che la gente non sa, no? Che Junio Valerio Borghese già ai tempi della guerra aveva tentato di far saltare un grattacielo a New York, no? C'è proprio scritto così nei libri di storia che ho consultato e che nella mostra ci sono le fotocopie. Ma ritorniamo al 20 settembre. 20 settembre 1870, per liberare Roma, purtroppo una sessantina di giovanotti ci lasciano le penne. E è stata una delle cose più vergognose di Pio IX, e lui sapeva che chiaramente se si spara col cannone, si spara col fucile, la gente muore. Qui non solo dalla parte, ma anche dalla tua. Però. E quindi lui se n'è fregato. Lui pensava a un miracolo, e così risulta proprio dai libri, era convinto che sarebbe avvenuto un miracolo per cui... all'ultimo momento questa occupazione non sarebbe avvenuta. E Raffaele Cadorna, il generale italiano, anche lui aveva dei dubbi. Quindi incaricò di dirigere il fuoco italiano a un ebreo, per sicurezza, per essere sicuro che questo qui non avrebbe girato il cannone. E l'attacco dalla parte del Vaticano lo affida Nino Bixio, famoso ateo anticlericale, mangiapreti, praticamente la sosia di Garibaldi, no? E comunque cosa succede il 20 settembre? Dopo un paio d'ore di bombardamento si apre la breccia, la fanteria italiana, i bersaglieri e i fanti vanno all'assalto, ormai non c'è più niente da fare, il Papa eleva bandiera bianca, gli zuavi si arrendono, e però nel frattempo sono morte 60 persone, quindi altro che amore per il prossimo. Ma quali sono gli effetti del 20 settembre? Non solo la liberazione di Roma, perché fino alla mattina del 20 settembre l'Inquisizione poteva ancora arrestare chiunque a Roma, perché l'Inquisizione aveva i suoi armigeri e quindi poteva arrestare chiunque. Ma dopo le 10, subito dietro l'esercito, arrivano i carabinieri, quindi da questo momento non si può più arrestare nessuno se non su mandato della magistratura. Quindi l'Inquisizione in pratica è neutralizzata. Questo succedeva già a Napoli, qui a Milano, in Piemonte, in Toscana, già prima dell'Unità d'Italia l'Inquisizione veniva molto limitata nella sua capacità di torturare, uccidere, bruciare, eccetera. Però dopo il 20 settembre abbiamo proprio che in tutta Italia è così. Abbiamo poi gli Emirati Cantori, qui pochi lo sanno, ma questi puttini castratelli venivano evirati veramente dai norcini, che erano specialisti nell'evirare i maiali, ma senza ucciderli, da piccolini, e viravano anche i maschietti, no? Ovviamente interessava virarli senza ucciderli, quindi bisognava avere persone capaci di fare queste cose, no? Gli evirati cantori compaiono a Roma verso 1500 nella cappella papale e spariscono col 20 settembre. I residui del feudalesimo che c'erano ancora nello stato della Chiesa, dove c'erano enormi feudi nobiliari presidiati dai campieri, no? Che presidiavano i confini del feudo e impedivano di uscire o entrare a chi non era gradito dal nobile. Anche qui finisce perché ci sono le stazioni dei carabinieri, quindi non possono più impedire nulla a nessuno. Abbiamo poi le monacazioni forzate, che sono stati fatti tanti film su questa tragedia di queste ragazze che nel fiore degli anni venivano chiuse nei conventi dai genitori per risparmiare sulla dote. L'uso della dote, che c'era da secoli, finisce con la Prima Guerra Mondiale. Però non si può più, già dal 1870, chiudere in convento nessuno. E quindi cosa fanno queste famiglie nobili che non vogliono tirare la dote? Inventano la signorina in casa. Praticamente chiudono in casa le ragazze di cui non hanno la dote o non vogliono spendere la dote, i soldi li hanno magari ma non vogliono darli al marito, eccetera, no? Quindi abbiamo poi appunto in conclusione insomma tutte questi misfatti fatti dalla Chiesa. Vediamo cosa ho saltato, gli evirati, il ghetto, sì, gli ebrei fino alla mattina del 20 settembre erano chiusi nel ghetto, che c'è ancora qualche vicolo, no? Chi è stato a Roma lo sa, no? Vicino al Tevere, dove c'è la sinagoga, no? Che c'è ancora. E venivano chiusi, oltre ad avere tutta una serie di norme, per cui non potevano fare i banchieri, non potevano iscriversi all'università, non potevano fare questo o quell'altro, eccetera. Col 20 settembre sono liberi di fare quello che vogliono, di andarsene, di iscriversi, eccetera, eccetera. Quindi cessano anche le famose prediche forzate, perché gli ebrei romani erano obbligati, un certo numero di persone ogni anno, ad assistere in una chiesa cattolica alle prediche che i frati domenicani, in genere quelli più dotti, cercavano di convincerli a convertirsi. Infatti a Roma c'era la casa dei catecumeni, no? Che c'è ancora il palazzo, no? Dove venivano rinchiusi quelli che volevano convertirsi. Però nel momento in cui tu dichiaravi di volersi convertire, non potevi più uscire, basta, ma eri a po', dovevi per forza, e loro sapevano come farsi ubbidire dalla gente, no? E c'era l'uso incredibile di offrire un parente. Quindi uno, senza saperlo, il bambino viene offerto dal nonno o dallo zio, te lo prendono e te lo mettono nella casa dei catecumeni. Poi c'era il caso Mortara, famoso, che tra poco faranno il film, dove proprio era stato battezzato da una cristiana, no? Perché, come sapete, le famiglie ebree ortodosse il sabato non possono fare niente, neanche dare la cosa ai bambini, no? E quindi devono per forza prendere una cristiana. Questa cristiana gli aveva battezzato di nascosto il bambino. Quindi subito i gendarmi pontifici vengono, lo prelevano e lo portano nella casa dei catecumeni. Questo qui per solo 2 anni è riuscito a salvarsi da Auschwitz, perché è morto appena prima dell'arrivo dei nazisti in Belgio, che loro l'avevano spedito in Belgio, in questi conventi francescani belgi. Perché sappiamo che i nazisti entravano anche nei conventi a prelevare gli ebrei, sia quelli che erano lì per scappare, sia quelli che erano proprio di razza ebraica, perché se ti convertivi al cattolicesimo rimanevi comunque un ebreo per i nazisti, quindi venivi portato ad Auschwitz, dove quasi tutti facevano una brutta fine. Ecco, la scomunica, c'è un grosso pannello con tutti gli scomunicati, no? Gli scomunicati sono quelli che quando muoiono non possono avere l'estremunzione, no? Che a noi atei non ce ne frega niente. Ma allora erano praticamente tutti cattolici, no? Anche i mazziniani più estremisti, no? E quindi la gente ci teneva. E quindi il Papa Pio IX, no? Scomunica tutti, scomunica il generale Cadorna, scomunica Bixio, scomunica il re, Cavour, Garibaldi, Mazzini, tutti scomunicati, no? E quindi si sono fatte negli anni 40 molte vignette su questo fatto, e quindi si possono vedere nella mia mostra questo ingrandimento in A3, no? Di questo giornale, che era il Don Basilio. Il Don Basilio era un giornale che non aveva capito bene la situazione politica, no? Però criticava la Chiesa dal lato giusto, gli scandali, i preti pedofili, allora come oggi, però nella sua critica coinvolgeva in maniera molto pesante anche De Gasperi, senza rendersi conto che erano gli stessi preti di destra che odiavano a morte De Gasperi e complottavano per farlo fuori, per aprire l'Italia a un governo autoritario di destra, ancora più a destra di quello di allora, no? Sul tipo spagnolo. Infatti Junio Valerio Borghese, famoso golpe, va a morire in Spagna, no? i colonnelli greci e tutto questo. Questo è quello che voleva la destra clericale, no? La Democrazia Cristiana era già troppo di sinistra per loro, no? Bene, se ci sono domande, la mostra è lì al primo piano, chi vuole vedere, fino a martedì.